sangue, se ti ricordi ancora i tuoi momenti passati insieme. Chi lo sa, se ogni tanto mi cerchi nei tuoi ricordi più lontani. Chi lo sa, se ti ricordi ancora di me. Chi lo sa, se ti ricordi ancora quei sabati passati su quella panchina e i baci e le tue carezze che forse non mi crederai, ma ogni tanto sento sul mio viso le tue mani. Chi lo sa, se ogni tanto pensi chissà cosa sta facendo.